Libro secondo. Le origini del male. La soglia della fabbrica la varcai nel 1988. Allora non c'era nessun tornello né badge magnetico, solo un cancello sempre aperto e un cartoncino che veniva mordicchiato con data e ora. Entrammo in 20 quel giorno di novembre, un giorno d'inverno temperato e mortifero. L'azienda era in espansione spaventosa. Qualcuno aveva visto lontano, individuato potenzialità, nuove esigenze, aree di mercato vergini da esplorare. Condizionatori d'aria per auto. Al tempo, optional elitario, oggi montato di serie anche sui muli della Sardegna. Dopo una settimana avevamo tutti il contratto a tempo indeterminato, montato di serie su tutti i disgraziati che nella vita non avevano saputo costruirsi nulla di meglio con degli studi o con altre iniziative personali. Quelli che rivendicavano una beata medietà, che non avevano fatto esperienze particolari. Quelli con la carta d'identità monotona, in cui il luogo di nascita e residenza coincidono o si discostano di pochi chilometri. Quelli con poche variabili, esigenze a basso voltaggio. Quelli che nella vita non avrebbero fatto mai nulla di male e niente di buono. Non lo sapevamo, ma ci stavamo lasciando alle spalle gli anni in cui il tempo indeterminato era considerato una pietra tombale per essere solo formalmente in vita. La popolazione con impeti di trasgressività disprezzava questa condizione. Il posto fisso liquidato come altamente pericoloso per gli stimoli cerebrali. Il primo caporeparto si chiamava Favaron. Gestiva la produzione. Era il tempo del caporeparto classico, solido e preparato. Piaceva alle femmine, era ben piazzato e con la battuta pronta. La sigaretta sempre in punta di labbra. Non era ancora tempo di divieti e aree azzurre del vizio. Era in grado di trattare alla pari con gli altri responsabili dell'imballo, magazzino e spedizioni. Favaron si mise a capo del gruppo di matricole e ci disseminò tra i banchi di lavoro. Uno dopo l'altro il drappello si andava a disciogliere nel mare dell'officina. Andavamo ad affiancare operai esperti che dovevano insegnarci il mestiere. Alla fine rimanemmo io e lui. E tutti i lavori erano stati assegnati. Mi guardò e mi disse: «A te cosa faccio fare?» E io che potevo dire? Alla fine mi mise a rivestire dei cassoni di rete con delle lastre di plastica ABS nera. Si trattava di fare due fori con un trapano elettrico e di fissare i fogli con una fascetta. Lavoravo dentro al contenitore che aveva alla base quattro piccole ruote che dimenticavo di bloccare. Il risultato era che i cassoni in rete sembravano muoversi da soli e gli operai che andavano in bagno, arrivati nella mia zona, si spaventavano per poi farsi beffe di me e del mio incarico. Non fu un bel esordio. Il povero Ferri fu il primo coordinatore dei diversi reparti. Allora mi sembrava un gigante. Metteva paura, ma meritava rispetto. Il solo nominarlo era atto di coraggio. Solo gli anziani osavano parlarne come fosse un oggetto, vivo, umano. A me i capi non hanno mai saputo come prendermi. Sono un'entità sfuggente. Non riesco a prendere confidenza, né mi pongo come elemento polemico. Non sono mai stato sveglio ed efficiente, e nemmeno un mascalzone scansafatiche. Risulto scivoloso. Nessun capo ci tiene a trattenermi alle sue dipendenze. Li metto di cattivo umore. Erano tempi pionieristici, alto medioevo fordista. Manufatti artigianali, borghesia operaia, gusci in plastica che nascevano come anfore, niente ABS a iniezione. L'assemblaggio richiedeva una certa manualità. Il giro di colla per chiudere le parti era insidioso, mano ferma e controllo. Nessuna pressione sulle tempistiche. Alcuni riscaldatori erano però molto rognosi. Matasse di cablaggi indomabili, inserimento della batteria evaporante al limite nelle misure. C'era sempre qualche trucco da imparare. Lavoravo nell'isola, un arcaico tentativo di catena di assemblaggio. Producevamo il gruppo climatizzatore della Citroën AX. Grande uso di silicone, colla liquida e muscoli, soprattutto il trapezio e il deltoide anteriore. Era una lotta a tenere insieme un oggetto le cui parti volevano tornarsene a zonzo nell'universo per i fatti loro. Gamba di legno, il capolinea amputato e con protesi, un giorno lanciò un gruppo che non voleva saperne di chiudersi sopra l'ufficio di Ferri, che bofonchiò qualcosa sulla soglia e poi se ne tornò alla scrivania. Sapeva bene quando non era il caso di essere punitivi. Gli operai anziani ci invitavano alla calma, sedavano gli impeti esibizionistici dei nuovi assunti. Le pause caffè erano ordinate ma lunghissime. I grembiuli erano blu chiaro, si sposavano bene con alcuni modelli di jeans rifle sbiaditi o con i Levi's 501. Eravamo limpidi come fanciulli. Ci stavamo preparando a una morte lentissima e senza sofferenze con il contratto a tempo indeterminato stretto tra le chiappe. Fu l'età dell'innocenza, per la fabbrica e per tutti noi. Massima espansione, il dominio europeo del mercato e un illuminismo degno dell'Olivetti. I giornalini di partito della cittadella ne tessevano le lodi con l'enfasi da cinegiornale. I sindacati imponevano assunzioni sovraccaricando tutti i reparti. In quest'isola della beata produttività si poteva distribuire benessere senza andare per il sottile. Era quasi un ente benefico. Il fatturato giustificava una gestione distratta della manodopera. Quando facevi qualche errore, Ferri ti convocava in ufficio, ti guardava in faccia e ti faceva la domanda classica del suo repertorio. A te questo lavoro piace? Non rimaneva che sgranare gli occhi e stringersi ancora di più le mani intrecciate al petto. Tacevo. Che dire? Forse davvero nel mio caso sarebbe stato meglio continuare a farsi di eroina, crepare nel cesso del bar di una stazione con tutto il paese al funerale, fare un corso di teatro senza contributi statali e mangiare alla mensa dei poveri, fare import-export di pietre dure dall'India, partire per la Spagna, finire incornato da un toro, morire di botte in una taverna del porto di Marsiglia, insomma, accelerare la fine con coraggio, senza mettere piede nella fabbricazza del paese. Ma stavo zitto davanti a Ferri. Aspettavo mi congedasse con un gesto della mano destra, come se desse un colpo di pennello alla parete alle mie spalle. Ringraziavo e tornavo al lavoro sui banchi rivestiti di panni blu, con gli utensili sparsi senza logica e una moderata voglia di fare meglio. Gli operai vecchi allora mi lanciavano una battuta in dialetto per stemperare la tensione del richiamo, come a dire: «Va bene così, sei dei nostri, ci siamo passati tutti dall'ufficio del Ferri». Era un'iniziazione che sapeva di battesimo. Poi un giorno Ferri sparì. Fine rimproveri burberi. Ferri lo vedo ancora oggi a girarsi nella zona dove era posto il suo ufficio. Succede solo nei mesi autunnali, quando le giornate si accorciano in modo impercettibile e la manutenzione accende le luci in leggero ritardo, o proprio non le accende, perché l'ora di chiusura è troppo vicina e non vale la pena farlo per poche decine di minuti. Oggi l'area è occupata da bassi scaffali per la minuteria, viti, rivetti, dadi, guarniture di piccola taglia. Quando la penombra è quella giusta, Ferri si manifesta. Si aggira con le mani dietro la schiena e il grembiule azzurro. È lui, adesso, che rimane in silenzio. Non osa rivolgermi la parola. Mi piace il giusto questo lavoro. Poco, ma non ho mai trovato la forza per fuggire. Ora gli rispondo. Non trova pace l'anima di Ferri. Lo hanno trovato con un sacchetto di nylon in testa. È quasi impossibile suicidarsi in questo modo. L'istinto di sopravvivenza porta a mollare la presa e ad esistere. Io lo dico in mensa, ma nessuno ascolta le mie tesi. Nessuno. Nessuno ricorda questa storia. Nessuno mi dà credito e mi rende onore per le rivelazioni. Parlo troppo in mensa. Lo spirito di questo luogo si manifesta servendosi di me per raccontare storie a cui fingono di non credere. Come medium posseduto da oscure presenze, rivelo misteri di cui nemmeno io sono a conoscenza. Questo crea sconcerto. A quel tempo c'erano anche gli operai ad alta professionalità. Si trattava di prendere visione del vano motore di un'auto e di verificare la possibilità di montargli dei corpi estranei su misura, i componenti della climatizzazione. Questo miracolo si compiva al reparto prototipi, luogo mitico a cui non ho mai avuto accesso per ragioni di lavoro dirette. Mi era capitato di passare esterno alla modelleria, dove si creavano gli stampi in legno che poi venivano fatti arrivare al reparto stampaggio delle plastiche. Gli operai di questi reparti sembravano sempre tranquilli, ma non era colpevole pigrizia, era consapevolezza del proprio valore. Non era facile sostituirli. Era una finta tregua, non c'era nessuna indolenza, risultati tangibili venivano ottenuti con grande classe. Magari davanti a una nuova impresa scuotevano la testa e buttavano a terra le cicche quasi al filtro. Fingevano di protestare con il capo progetto, poi ficcavano il grugno sempre più in basso, nel cuore dell'auto, e iniziavano a consultarsi, tenendo fuori dai dettagli tecnici il capo officina. Capite? Non sono passati che pochi anni, ma sembra un'altra era. Con Romano, della modelleria, si parlava di cinema americano e di musica, fino a che ci rendevamo conto che forse non era il caso di esagerare. E si virava sulla figa, o meglio, sulla voglia di figa, ma tutto regolato da un senso della misura che non trovo più da anni in questo luogo, nell'era dell'operaio massa. Oggi la figura dell'operaio specializzato è in via di definitiva estinzione. Il bravo operaio, che se rimane in mutua tutto si blocca tra le bestemmie del titolare, è morto. senza aver fatto un solo giorno di malattia. Poteva sembrare un ufficiale leccaculo dai modi ruvidi, ma aveva cognizioni specifiche, talento per le attività pratiche, innata manualità. Poteva stare a testa alta, rivendicare una fetta della torta per sé e qualche briciola per il resto della truppa. Le attività che svolgiamo negli ultimi anni nelle linee produttive sono elementari, semplice assemblaggio, non è richiesta alcuna qualità, nemmeno a livello di potere intermedio è necessaria alcuna competenza tecnica. I capi reparto si limitano a spalmare la forza lavoro sulle diverse linee tenendo conto dei numeri richiesti dal cliente. Un lavoro che potrebbe essere delegato a un semplice programma. Questo posto non è il peggiore degli inferni, è solo il mio inferno. Nelle sue viscere si agitano i dispositivi di sempre. Assurdo pretendere giustizia. Esiste solo il controllo. Questo luogo ha una sua identità. È il protagonista di queste pagine, ha orecchie buone, una sensibilità che stupisce, individua e spurga tossine che il sistema immunitario ritiene dannose. Di recente alcuni alti dirigenti hanno rassegnato le dimissioni. I loro visi sono apparsi all'interno delle bacheche, piccole foto in bianco e nero, icone fuori dal tempo. Qualche riga in inglese, ringraziamenti per il lavoro svolto, auguri per le prossime funzioni, da svolgere altrove. Si resume volontarietà. Cazzate. Alcune divinità si sono trovate in offside, tutto è successo in poco tempo. In anni remoti hanno brillato alte e luminose, oggi rifiutano ridimensionamenti. Non hanno capacità di mutazione, non hanno da esibire altra faccia se non quella del potere assoluto. Loro questa cattedrale l'hanno innalzata al cielo. Quando era una piccola parrocchia di campagna hanno gestito la crescita e lo sviluppo, ma erano figure secondarie. I nomi immarcescibili, gli immortali, sono pochi, si contano sulle dita di una mano. Le competenze richieste oggi sono di tipo politico-strategico, nulla di tecnico. Il prodotto, il nostro prodotto, è cambiato. Non si crea più nulla dal nulla, come nel periodo pionieristico del mercato aftermarket. Tutto è puro assemblaggio di parti arrivate da fornitura esterna. Non c'è più bisogno di genio e sregolatezza o di talento da esibire nella risoluzione di problemi di meccanica. Non sempre tutto è scontato. Non sempre personaggi che sembravano potenti e immortali si sono rivelati tali. Giulio Benti giunse cucciolo, grassottello e timoroso, lavorava a una tesi di laurea sull'applicazione del modello Value Stream. Stava germogliando un leader e nessuno poteva supporlo. Dimagrì, giorno dopo giorno, grazie alla dieta zona e a un innalzamento del metabolismo da aumento della considerazione in se stesso. Gli zigomi sporsero, infilzarono le gote e di sotto si profilò il disegno di un pizzetto affilato. Per anni sembrò essere il vero referente dello stabilimento presso la proprietà americana. Aveva una buona gestualità, sempre molto cortese, modi veltroniani, votava centrosinistra. Aderì allo sciopero sull'articolo 18, che dagli operai produttivi e dal sindacato centrale era stato ignorato. Fece della comunicazione e dell'informazione le sue armi migliori. Aveva talento e si applicava con rigore alla riorganizzazione dello stabilimento, e questo fu forse il suo grande errore. Oggi posso affermare che tutto doveva cambiare, ma solo formalmente, e che tutto doveva rimanere immutato. La sua fu un'ascesa lenta ma luminosa, non fu calato dall'alto. Negli anni conquistò stima e consenso a tutti i livelli. Conosceva alla perfezione tutti i comparti dell'azienda, li aveva studiati sulla carta, ma poteva avanzare considerazioni sensate e velenose su questioni tecniche come di finanza. Non gli si poteva nascondere nulla, nessuno pareva galleggiare tranquillo, forte di una competenza circoscritta e inespugnabile. Le sue osservazioni erano sempre attinenti alla sostanza dei problemi. Il sindacato centrale lo adorava e non ne faceva mistero nelle assemblee. Avevano trovato un interlocutore sensibile alle istanze del contratto aziendale. Avevano potuto ignorare completamente gli orientamenti dettati dalle confederazioni nazionali. Benti un giorno rassegnò improvvisamente le dimissioni, prima ancora che voci incontrollate potessero scuotere le fondamenta dello stabilimento, segno che la scossa tellurica era stata davvero repentina e inaspettata. Ne diede pubblico annuncio nella relazione di fine anno, durante il rito che precede le ferie natalizie, la festa con lo spumante e il panettone a cui possono partecipare anche i familiari dei dipendenti. Benti era un morto che camminava. Alle 15:30 era ufficialmente dimissionario. Durante il discorso pareva scosso, nessuna recita, si era scritto il testo per non farsi tradire dalla commozione. Difficile fare ipotesi, impossibile stabilire quanto la scelta fosse stata volontaria. Al discorso pare abbia detto che aveva raggiunto i traguardi che si era prefissato e che sentiva un ciclo della sua vita a chiudersi. Come quegli allenatori di squadre di calcio che in pochi anni hanno ottenuto i successi più ambiti e lasciano per cercare nuovi stimoli o migliori ingaggi. Sentì gli applausi dall'officina. Non ho mai partecipato alle celebrazioni dell'ultimo giorno prima delle feste natalizie. Ero solo, seduto al tavolo blu dove le operaie si seggono per le pause collettive e le merende. 3 applausi dopo i discorsi dei 2 manager principali e della guida spirituale, il vecchio edificatore della nostra azienda, oggi puro spirito salito a cariche di rappresentanza eterea. Seguirono altri brevi applausi per le premiazioni di anzianità aziendale. Alcune operaie prendono il pomeriggio di ferie e si presentano al brindisi di fine anno alle 5, tirate da discoteca, con gli abiti migliori e fresche di parrucchiera. Ne incontrai una attraversando in obliquo il piazzale tra il Building 2 e il Building 1. Come al solito, mi assalì una profonda tristezza, nell'eterna esitazione tra rabbia e pietà. Benti fu l'ultimo direttore di stabilimento con poteri effettivi. Sembrava davvero una persona corretta. Fu un nemico difficile da odiare, ma ci riuscii benissimo. I miei anni d'inferno e il mio siluramento erano avvenuti durante il periodo del suo mandato. Impossibile stabilire responsabilità dirette sulla mia umile e insignificante figura professionale. Nel dubbio, odio. Dopo di lui si alternò un carosello grottesco di figuranti senza potere, personaggi bizzarri che nemmeno parlavano italiano e che avanzavano rimproveri solo riguardo l'ordine e la pulizia delle parti. Manager posticci, senza famiglia né legami, si alternarono nell'ufficio della presidenza. Si dissolvevano nel nulla, venivano presto rimpiazzati e dimenticati. Fossero stati eliminati fisicamente, nessuno ne avrebbe reclamato le spoglie. Nessun contratto d'affitto, abitavano in albergo. L'ultimo era un ologramma proiettato in sala conferenze, quando si rendeva necessaria l'apparizione, 2 volte l'anno. Davvero me ne sono accorto solo io? Le cose stanno cambiando. Adesso il manager deve avere famiglia, almeno un figlio immortalato nello screensaver, una situazione tradizionale nel segno del cattolicesimo occidentale. Sul video di Verdini, il dirigente che mi silurò, campeggiavano 2 perfetti cuccioli di vichinghi biondo azzurrati del tutto dissimili dall'ipotetico padre. La foto in realtà era stata scaricata dalla rete. Digitando in Google «bimbi belli», stando attenti a scansare i siti pedofili, verso la 3ª pagina compare questa immagine di perfezione riproduttiva. Penso che tutto questo possa avere a che fare con la restaurazione storica in atto, con l'ultima enciclica di Joseph e con l'eugenetica in generale. 15 mesi di catena di montaggio dopo 18 anni di controllo qualità hanno compromesso il mio equilibrio psichico. Sono debole e incattivito. Una vita tra cerebro lesi che alternano scatti d'ira a stati vegetativi. Una guerra di trincea, sfibrante. Bombardamenti quotidiani. I ritmi lavorativi, i movimenti reiterati all'infinito, gli stimoli intellettuali mortificati dalle esigenze pratiche della vita domestica. La televisione sedativa, i ristoranti pizzeria, il ricevimento dei professori, le vacanze estive trascorse nei paesi di origine del Sud Italia. Le catene di assemblaggio sono piene di femmine. Non è un caso. Questo luogo è, sì, dominato da fenomeni cosmici random, ma vi assicuro che alcune scelte del management mi appaiono pianificate. Le femmine sono più dotate per eseguire lavori ripetitivi e non mettono mai in discussione la leadership. Anzi, hanno bisogno di un potere forte, non pongono in atto nessuna forma di protesta. Tutto il conflitto si limita a piccole battaglie tra pari livello per le bucce di patate. Molte donne non sono sopravvissute al parto e conducono esistenze terrificanti. Sembrano fuori gioco su tutto ciò che non è tangibile, riferibile a esigenze pratiche. Refrattarie a ogni impeto trasgressivo, incapaci di sognare, hanno ammazzato a martellate tutti i grilli che nella testa dovevano pur aver avuto, almeno nei primi anni della loro esistenza. Oppure no, forse nemmeno da bambine hanno giocato a fare la principessa, per allenarsi da subito al peggio che la vita avrebbe riservato loro. Sembrano vomitate sul pianeta il giorno stesso. Non hanno memoria storica, visione tridimensionale. Ma sulla competitività lavorativa sono spietate. Le mansioni sono elementari. Nulla lasciano a creatività e iniziativa individuale. eppure riescono a ricavare un'implacabile meritocrazia che nemmeno la dirigenza pretende esplicitamente. Sono efficienti in quanto attenti ai dettagli, dotati di grande precisione. Il loro cervello conosce un solo modo per eseguire un'operazione e si rifiuta di accettare alternative che portano allo stesso risultato. L'ottusità, in produzione, si fa qualità. L'ideale sarebbe arrivare ad avere dei veri e propri ritardati mentali sul posto di lavoro, ma adatti all'attività ripetitiva, organizzati da uomini mediamente attrezzati, ma non troppo brillanti né motivati. Mi rendo conto solo ora che sono le femmine la vera forza motrice di questo posto. L'energia che muove il meccanismo è costituita da estrogeno. Questa visione, vi concederò, è aerea, non va per il sottile. Ci sono operaie miti e ragionevoli, sensibili. Alcune, intuendo la mia tragedia, manifestarono affetto e pena per la mia condizione. Una solidarietà commovente. Non è facile avvicinarmi, parlarmi, forare il guscio, ottenere risposte sensate. Vivo nel sospetto, eppure la Tracchi, sposata a un benzinaio che seguiva la squadra di calcio del Bologna anche in trasferta, me lo disse chiaro. Non te lo meritavi, noi vedevamo quanto lavoravi. Usò il plurale, come si facesse portavoce di un pensiero condiviso, almeno da una parte delle operaie di linea troppo intimorite per rendere quella posizione esplicita. Risposi con una battuta assurda, che nemmeno ricordo. Ebbene sì, ho messo in conto vittime innocenti. In questo luogo appare evidente la differenza tra l'esemplare migliore e quello più adatto. Il migliore poggia su doti umane articolate, su un'etica che risulterebbe inutile, quando non dannosa. Il più adatto deve regredire nella catena evolutiva, avvicinarsi allo stato scimmiesco e non possedere alcuna visione d'insieme delle condizioni di lavoro. Se non gli sarà consentito di usufruire di un giorno di ferie, la scimmia scatenerà il proprio odio verso la scimmia in mutua, senza curarsi del fatto che i responsabili dei reparti non hanno approntato alcun turnover sul personale, mancando gli step per l'intercambiabilità degli scimpanzé su tutte le mansioni. Le donne devono sempre dimostrare di essere migliori della collega che lavora accanto e che secondo la rotazione fa le stesse mansioni dettate dall'instruction plan nel medesimo tempo. Potrebbe apparirvi impresa impossibile, ma credetemi, un meccanismo inchiodato da secoli si è fatto patrimonio genetico e le induce a essere seducenti verso il potere e sedotte dal potere stesso. Il potere è sempre e comunque maschio. Alcune hanno sposato carabinieri. Gli operai maschi svolgono mansioni esterne alle linee di assemblaggio. Sono magazzinieri o servicemen, sono posti a valle o a foce del cuore produttivo. Non hanno malizie, sono più dispersivi, indolenti, privi di spirito competitivo. Lavorano per la busta paga, fuori dalla fabbrica si dedicano alla cura dell'auto. I più svegli frequentano le fiere dell'elettronica. Maschi e femmine vivono astrazioni, si accontentano di pezzi di vetro colorato. È sempre l'incoscienza a salvarli dalla depressione e dalla follia. Un delicato istinto di conservazione li sigilla e li rende impermeabili a dubbi e domande profonde, all'idea del suicidio. Non diventano pericolosi per sé e per gli altri. Nessuno ha ancora acquistato una K47 su internet, forse perché non si fidano ad usare la carta di credito per gli acquisti in rete, forse perché non hanno accesso alle fiere delle armi da fuoco. Nessuno, fino ad ora, è entrato in mensa con un fucile mitragliatore. Ma gli operai non sono forse belli? La risposta al poeta Sandro Penna è no, non sono affatto belli, se visti da vicino. Dicono cose che farebbero inorridire ogni poeta. Meglio scriverne tenendosene alla larga. In fila, con il vassoio in mano, non sanno se ridere o piangere, batton le mani, fan finta di essere sani. Si salutano come non si vedessero da anni e recitano la stessa formula a chi è già seduto e mangia. Come va? Tutto a posto? Dai, che oggi è venerdì. Non hanno capito che abbiamo tot venerdì a disposizione, alcune migliaia di venerdì, ma è sempre un limite temporale che dovrebbe angosciarli dal momento che li sprecano in una fabbrica padana, in fila, con un vassoio in mano. L'idea della morte non li tange, i loro pasti sono illimitati. Il tempo è un buco nero di antimateria, ma hanno provveduto ad acquisire una fetta di immortalità generando prole. Questi bambini diventeranno adolescenti e assomiglieranno sempre di più ai genitori, poi sbrigheranno le pratiche burocratiche per la sepoltura dei loro vecchi. Tutto è a posto perché nulla può esserlo e c'è solo rassegnazione. Non c'è rinascita, non c'è vita, non è ancora morte. I dialoghi sono testi del teatro dell'assurdo. Operai e impiegati entrano in uno stato di decompressione che stacca le attività cerebrali. Non sanno come gestire l'ora di libertà. Senza nessuna costrizione, fanno uscire il peggio di sé. Pare che ogni giorno venga servito qualche contorno che provoca aerofagia. Polenta, fagioli, cipolle cotte. Uno scherzo del destino o un piano delle cuoche della mensa. Risatine preoccupate per il pomeriggio nel ventre della catena di assemblaggio. Tutti i giorni la stessa constatazione. Nei secoli, nelle generazioni. Se qualcuno sbuccia e mangia una banana, il riferimento al cazzo è inevitabile. Da sempre, per sempre. Dalle scuole elementari, ogni giorno. Ogni giorno qualcuno rimane a casa, in maternità o si sposa. Si sposa Antonio. Si sposa Antonio? Quando si sposa Antonio? Non so, a primavera? Qualcuno sa quando si sposa Antonio? Non so, in autunno. Quello prossimo, mica questo, siamo in autunno. Qualcuno sa se è autunno? Chiedi quando si sposa Antonio. Ale, sai quando si sposa Antonio? Chi è Antonio? Non me ne frega un cazzo di Antonio. Sai se è primavera? Porco...